Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. La saliva del marabutto. Mi allontanai dal gruppo degli otto ciechi con la loro litania nelle orecchie. Ma dopo qualche passo fui colpito da un vecchio con i capelli bianchi che se ne stava in piedi tutto solo, con le gambe un po' larghe. Teneva il capo leggermente chinato e masticava. Anche lui era cieco. E a giudicare dagli stracci di cui era vestito, si trattava di un mendicante. Ma le sue guance erano piene e arrossate, le labbra sane e umide. Masticava lentamente, con le labbra serrate, e aveva sul volto un'espressione serena. Masticava con scrupolo, come se agisse secondo una prescrizione. Era chiaro che questo gli procurava un grande godimento. E mentre lo stavo osservando, mi venne da pensare alla sua saliva e al fatto che dovesse averne moltissima. Stava in piedi, davanti a una fila di bancarelle sulle quali erano state ammucchiate montagne di arance da vendere. Uno dei negozianti, mi dissi, gli aveva certo dato un'arancia e lui la stava masticando. Il vecchio teneva la mano destra un po' staccata dal corpo. Le dita della mano erano tutte molto separate una dall'altra. Sembravano paralizzate, come se non potesse chiudere la mano. C'era parecchio spazio attorno al vecchio, e in quel luogo così affollato trovai la cosa sorprendente. A vederlo sembrava uno che sta sempre solo e che non desidera niente di meglio. Ero intento a osservarlo mentre masticava con tanta risolutezza e decisi di aspettare. Volevo vedere che cosa sarebbe successo quando avesse terminato. Durò molto a lungo. Mai avevo visto un uomo masticare così di cuore e con tanto scrupolo. Sentii che anche la mia bocca si muoveva leggermente, benché in essa non ci fosse nulla da masticare. Provai una specie di profondo rispetto per il godimento di quell'uomo, che mi sembrò quanto mai stravagante, più di qualsiasi altra cosa mai vista da me sulla bocca di chi che sia. La sua cecità non mi riempiva di compassione, mi sembrava assorto e contento. Non una sola volta si interruppe per chiedere l'elemosina, cosa che di norma facevano tutti gli altri. Forse aveva ciò che gli serviva, forse non gli serviva nient'altro. Quando ebbe finito, si leccò un paio di volte le labbra, allungò un poco la mano destra, quella con le dita separate, e si mise a recitare con voce roca la sua litania. Mi avvicinai a lui con una certa timidezza e gli misi una moneta da 20 franchi nella mano. Le dita rimasero distese. Dunque era vero, non poteva piegarle. Sollevò lentamente la mano e la portò alla bocca. Spinse la moneta contro le labbra umide e la fece sparire in bocca. Non appena la moneta fu dentro, il vecchio ricominciò a masticare. Spostava la moneta di qua e di là nella bocca. A me pareva di poterne seguire i movimenti. Era ora a sinistra, ora a destra, ed egli riprese a masticare con lo scrupolo di prima. Mi stupii e rimasi nel dubbio. Mi domandai se non stavo sbagliando. Forse la moneta era sparita nel frattempo da tutt'altra parte, ed io non me ne ero accorto. Attesi di nuovo. Dopo che ebbe terminato di masticare con lo stesso godimento di prima, la moneta riapparve tra le sue labbra. La sputò nella mano sinistra che aveva alzato. Insieme alla moneta venne giù moltissima saliva. Poi fece sparire la moneta in una borsa che portava a sinistra. Lo schifo che provavo tentai di dissolverlo nella nota esotica. Non c'è niente al mondo di più lurido del denaro. Ma io non ero quel vecchio. E ciò che a me faceva schifo era per lui un godimento. E poi, non avevo visto forse qualche volta della gente che baciava le monete? Tutta quella saliva aveva qui di sicuro una funzione particolare. Ed era chiaro che quel vecchio si distingueva dagli altri mendicanti per l'abbondante produzione di saliva. Si era esercitato a lungo prima di chiedere l'elemosina. E anche prima, qualsiasi cosa egli stesse mangiando, nessun altro ci avrebbe messo tanto tempo. I movimenti della bocca avevano certo un significato. Oppure aveva messo in bocca soltanto la mia moneta. Aveva sentito nel palmo della mano che essa valeva di più delle monete che riceveva di solito. E forse per questo voleva ringraziarmi in modo speciale. Decisi di star lì a vedere. E l'attesa non mi fu di peso. Ero sgomento, ma anche affascinato. E sono certissimo che non sarei riuscito a guardare nient'altro al di fuori di quel vecchio. Ripetei parecchie volte la sua litania. Passò davanti un arabo e gli mise nella mano un pezzo da 5 franchi. Egli lo portò senza indugio alla bocca. Lo infilò dentro e cominciò a masticare esattamente come prima. Forse questa volta non masticò così a lungo. Di nuovo sputò fuori la moneta, con molta saliva, e la fece sparire nella borsa. Ricevette altre monete, ce n'erano anche di piccolissime. La stessa cosa si ripeté varie volte. Io ero sempre più perplesso. Quanto più lo osservavo, tanto meno capivo perché mai lo facesse. Su una cosa però non avevo più dubbi. Quel vecchio faceva sempre così. Era questo il suo costume, il suo modo particolare di chiedere l'elemosina. E la gente che gli dava qualcosa si aspettava da lui che partecipasse con la bocca. E a me, ogni volta che l'apriva, la sua bocca appariva più rossa. Non mi accorsi che qualcuno stava osservando anche me. E sono sicuro di aver offerto uno spettacolo ridicolo. Forse, chissà, ero talmente sbigottito che stavo lì a bocca aperta. Poi all'improvviso comparve un uomo da dietro le sue arance. Fece alcuni passi verso di me e disse con tono rassicurante: «È un marabutto». Sapevo che i marabutti sono dei santoni ai quali si attribuiscono speciali poteri. La parola suscitò in me una certa soggezione e sentii che di colpo il disgusto diminuiva. Domandai timidamente: «Ma perché si caccia in bocca le monete?» «Lo fa sempre», disse l'uomo, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Si allontanò da me e tornò di nuovo dietro le sue arance. Mi accorsi solo allora che dietro ogni bancarella c'erano 2 o 3 paia d'occhi puntati su di me. Ero io la creatura stupefacente, io che così a lungo non avevo capito. Con quella informazione mi sentii congedato e non rimasi più per molto tempo. Il marabutto, mi dicevo, è un santone, e tutto in lui è santo, persino la saliva. Portando a contatto con la sua saliva le monete dei donatori, egli impartiva loro una speciale benedizione, e così accresceva il merito che essi si erano guadagnati in cielo, facendogli l'elemosina. Quel vecchio era sicuro del paradiso. Lui stesso aveva qualcosa da dispensare, qualcosa che per gli uomini era più necessario di quanto non fossero per lui le loro monete. Capivo ora la serenità diffusa sul suo volto cieco, una serenità che lo rendeva diverso dagli altri mendicanti che avevo visto finora. Me ne andai e mi restò talmente impresso nella mente che parlai di lui a tutti i miei amici. Nessuno lo aveva mai notato e mi accorsi che dubitavano della verità delle mie parole. Il giorno seguente mi recai nello stesso luogo, ma lui non c'era. Cercai dappertutto, ma era introvabile. Cercai ogni giorno, non ritornò. Forse viveva da solo in qualche posto sui monti e soltanto di rado veniva in città. Avrei potuto chiedere di lui ai venditori di arance, ma di quelli mi vergognavo. Il vecchio non aveva per loro lo stesso significato che aveva per me. E mentre infatti non provavo alcun imbarazzo nel parlare di lui agli amici che non lo avevano mai visto, preferivo tenerlo separato da quelli che lo conoscevano bene e con i quali era in rapporti di naturale familiarità. Egli non sapeva nulla di me e quelli magari gli avrebbero detto qualcosa sul mio conto. Lo rividi ancora una volta, precisamente una settimana più tardi, di nuovo un sabato sera. Era in piedi davanti alla stessa bancarella, ma in bocca non aveva nulla e non masticava. Recitava la sua litania, Gli diedi una moneta e aspettai. Volevo vedere che cosa ne avrebbe fatto. La masticò subito, come sempre, con diligenza. E mentre ancora era intento in questa attività, un uomo mi venne accanto e disse la sua sciocchezza. È un marabutto. È cieco. Si caccia la moneta in bocca per sentire quanto lei gli ha dato. Poi parlò in arabo al marabutto e intanto indicava me. Il vecchio aveva finito di masticare e sputò fuori la moneta. Si girò verso di me e il suo volto era raggiante. Recitò per me un versetto di benedizione che ripeté 6 volte. La gentilezza e il calore da cui mi sentii pervaso mentre lui parlava non li ho mai ricevuti da nessun altro essere umano. Casa silenziosa e tetti deserti. Per prendere confidenza con una città straniera è necessario disporre di un luogo appartato, un luogo su cui si può contare e dove si può restare soli, quando la confusione delle voci nuove e incomprensibili diventa troppo grande. Questo luogo ha da essere tranquillo e silenzioso. Nessuno deve vederci quando in esso cerchiamo riparo, e neanche quando poi decidiamo di lasciarlo. La cosa più bella è sparire in un vicolo senza uscita, fermarsi davanti a un portone di cui si ha la chiave in tasca e aprirlo, senza che anima viva ci possa sentire. Si entra nel fresco della casa e ci si chiude la porta alle spalle. È buio. E per un attimo non si vede nulla. Siamo simili a quei ciechi che abbiamo lasciato sulle piazze e nei vicoli. Ben presto, però, recuperiamo la vista. Vediamo gli scalini di pietra che portano al primo piano e sopra incontriamo un gatto. Quel gatto incarna per noi l'assenza di rumore, ardentemente desiderata. Gli siamo riconoscenti perché vive. Dunque, è possibile vivere anche nel silenzio. Si cammina su e giù, respirando il silenzio. Dov'è rimasto il mostruoso andirivieni? E la luce sfacciata, e quei rumori sfacciati, e le centinaia e centinaia di volti. In queste case poche finestre danno sulla strada, a volte nessuna. Tutto si apre sul cortile, e questo si apre sul cielo. Solo attraverso il cortile entriamo in un mite e misurato contatto con l'ambiente che ci circonda. Si può anche salire sul tetto e di colpo vedere gli innumerevoli tetti a terrazza della città. Si ha l'impressione di una spianata e tutto sembra fatto di ampie gradinate. Viene da pensare che si può passeggiare sopra l'intera città. I vicoli non sono un ostacolo, non si vedono, si dimentica la loro esistenza. I monti dell'Atlante risplendono vicini e si potrebbe scambiarli per la catena delle Alpi se la loro luce non fosse più fulgida e non vedessimo tutte quelle palme tra i monti e la città. I minareti che si innalzano qua e là non sono come i nostri campanili. Sono anch'essi slanciati, ma non finiscono a punta. Hanno la stessa larghezza in basso come in alto e ciò che conta è la piattaforma su in cima, da dove giunge l'invito alla preghiera. Assomigliano piuttosto a dei fari, nei quali però dimora una voce. Sopra i tetti delle case si svolgono le manovre di un'intera popolazione di rondini. È come una seconda città, solo che in essa la vita è tanto rapida quanto è lenta nelle strade degli uomini. Queste rondini non si riposano mai. Ci si domanda se qualche volta dormano. Ad esse manca la pigrizia, la moderazione, la dignità. Rubano volando, e i tetti che sono deserti gli appaiono forse come una terra di conquista. Perché sui tetti non ci si fa vedere. Qui, pensavo, vedrò delle donne come nelle favole. Da qui potrò guardare nei cortili delle case, nelle case vicine, e ascoltare di nascosto il loro affaccendarsi. Quando salii per la prima volta sul tetto della casa di un mio amico, ero pieno di aspettative. E fin tanto che guardai lontano, in direzione dei monti oltre la città, egli ne fu contento. Ed io mi accorsi della sua fierezza di potermi mostrare uno spettacolo così bello. Al contrario, diventò irrequieto quando io mi stancai di guardare lontano e si destò la mia curiosità per le cose vicine. Mi sorprese mentre davo un'occhiata nel cortile della casa accanto, da dove udivo con gioia voci femminili che parlavano in spagnolo. «Questo qui non si fa», mi disse l'amico. «Non si deve mai farlo. Sono stato ammonito varie volte anch'io. È ritenuto indelicato occuparsi dei fatti della casa accanto. Lo ritengono un atto sconveniente. In generale, non bisogna farsi vedere sui tetti. Gli uomini poi, meno che meno. Perché le donne qualche volta vanno sui tetti e vogliono sentirsi tranquille. Ma qui di donne non ce n'è neanche una. Forse ci hanno visto», replicò lui. «Ci si mette in cattiva luce. Non bisogna rivolgersi neppure alle donne velate, quelle che si incontrano per la strada. E se volessi chiedere dov'è una certa via, dovresti aspettare. Dovresti aspettare finché ti viene incontro un uomo. Però potresti sempre sederti sul tuo stesso tetto. Se vedi qualcuno sul tetto vicino, mica è colpa tua. In tal caso, dovrai guardare da un'altra parte. Dovrai far notare quanto poco ti interessi la cosa. Proprio adesso è apparsa dietro di noi una donna, è una vecchia serva. Non sospetta neppure che io l'ho notata, eppure è già scomparsa. Non ebbe neanche il tempo di voltarmi. Dunque, si è meno liberi sul tetto che per la strada, certamente, fu la sua risposta. Nessuno vuol mettersi in cattiva luce presso i vicini. Osservai le rondini e le invidiai. Le invidiavo perché sprecciavano con noncuranza sopra 3, 5 e anche 10 tetti. La donna alla grata. Passai davanti a una fontanella pubblica, una fontanella alla quale stava bevendo un ragazzo. Piegai a sinistra e udii una voce sommessa, tenue, tenue e delicata, che veniva dall'alto. Levai lo sguardo verso la casa di fronte e vidi all'altezza del primo piano il volto di una giovane donna dietro una fitta grata. La giovane era senza velo e scura di carnagione e teneva il volto vicinissimo alla grata. Disse molte frasi che scorrevano leggere e ognuna di quelle frasi era fatta di parole carezzevoli. Non riuscivo a capire perché mai quella donna non portasse il velo. Teneva la testa un po' chinata e mi accorsi che parlava con me. La sua voce non si alzava mai di tono, rimase sommessa e uniforme. C'era una grande tenerezza in quella voce, come se tenesse la mia testa tra le braccia. Ma non vedevo le mani. Non mostrava altro che il volto. Forse le mani erano legate da qualche parte. La stanza dove lei si trovava era buia. Sulla strada dove stavo io, invece, il sole splendeva abbagliante. Le sue parole sembravano scorrere da una fontana e traboccavano una nell'altra. Ed io, che pure non avevo mai udito dei vezzeggiativi in quella lingua, mi accorsi che lo erano. Volevo avvicinarmi di più per vedere la porta della casa da cui veniva la voce, ma temevo che un mio movimento la scacciasse come un uccello. Che cosa avrei fatto se si fosse taciuta? Cercai di essere come la voce, delicato e sommesso, e camminai come non avevo mai camminato. Mi riuscì di non spaventarla. Sentivo la voce anche quando fui vicinissimo alla casa, tanto da non poter più vedere la testa vicino alla grata. Lo stretto edificio faceva l'effetto di una torre in rovina. Si poteva guardare in una breccia del muro, da dove erano cadute delle pietre. La porta, fatta di povere assi e priva di qualsiasi ornamento, era stata fissata con del filo di ferro e, a quel che sembrava, non veniva aperta molto spesso. Non era una casa accogliente, non si poteva entrarci. Dentro era buio e certamente tutto in rovina. Subito dietro l'angolo si apriva un vicolo cieco, ma era immoto e silenzioso, ed io non vidi nessuno a cui avrei potuto domandare qualcosa. Neppure nel vicolo smarrì il carezzevole flusso di quella voce. Svoltato l'angolo, aveva un suono come di lontanissimo mormorio. Tornai indietro. Mi misi di nuovo a una certa distanza dalla casa e alzai lo sguardo. Ed ecco rividi l'ovale di quel volto, vicinissimo alla grata, e le labbra che si muovevano in parole di tenerezza. Mi sembrò che il loro suono fosse un poco mutato. Vi sentivo dentro una supplica incerta, come se la donna volesse dirmi: non andartene. Forse aveva pensato che me ne fossi andato per sempre quando ero scomparso per esaminare la casa e il portone. Adesso ero di nuovo lì e dovevo restare. Come posso descrivere l'effetto che suscita il volto di una donna senza velo, che abbassa lo sguardo dall'alto di una finestra, in una città come questa, in un vicolo come questo? Sono poche le finestre che danno sulle strade e non si vede mai nessuno affacciarsi fuori. Le case sono come muri e si ha spesso l'impressione di camminare a lungo tra i muri, pur sapendo che sono case. Si vedono le porte e pochissime finestre che non vengono usate. Con le donne accade qualcosa di analogo. Quando esse camminano come sacchi informi lungo i vicoli, non si scorge né si intuisce nulla, e presto ci si annoia di occuparsene e di dover ricorrere all'immaginazione. Si rinuncia alle donne, ma si rinuncia al malincuore. Così, quando poi una donna ti appare alla finestra e addirittura ti parla, e china leggermente il capo e non va più via, come se da sempre ti avesse atteso qui, una che poi continua a parlare quando le volti le spalle e ti allontani piano piano, una che parlerà, non importa se tu ci sei oppure no, che sempre ti parlerà, che parlerà sempre a tutti. Quella donna, allora, diventa un miracolo, un'apparizione. E sei propenso a considerarla più importante di tutto ciò che pure varrebbe la pena di essere visto in questa città. Mi sarei fermato lì molto più a lungo, ma non si può dire che quello fosse un quartiere tranquillo. Mi venivano incontro donne velate, che non si fermavano neanche un istante davanti alla loro compagna lassù, vicino alla grata. Passavano davanti alla casa a forma di torre, come se nessuno parlasse. Non si fermavano, non guardavano in alto. Si avvicinavano alla casa con passi uniformi, e proprio sotto la finestra di lei che parlava, svoltavano nel vicolo dove io mi trovavo. Ma sentivo bene che mi lanciavano occhiate di disapprovazione. Che ci facevo qui? Perché stavo fermo in questo posto? Perché guardavo fisso in alto? Sopraggiunse un gruppo di scolari. Andavano giocando e scherzando per la loro strada, comportandosi come se non udissero il suono che veniva dall'alto. Mi osservarono. Io ero per loro più strano di quella donna senza velo. Mi vergognai un po' di stare lì fermo con lo sguardo fisso. Sentivo però che andandomene avrei deluso quel volto accanto alla grata. Le sue parole seguitavano a scorrere come un rivo di melodie, canti di uccelli. Ma in mezzo alle parole risuonavano ora i richiami squillanti dei bambini, che solo lentamente si allontanavano. Essi avevano con sé le loro cartelle ed erano appena usciti da scuola. Cercavano di allungare il tragitto per tornare a casa e inventavano dei piccoli giochi. Una delle regole consisteva nel saltellare su e giù per la strada. Avanzavano perciò a passo di lumaca e mi inflissero il supplizio di starli a sentire. Si fermò vicino a me una donna con accanto un bambino piccolissimo. Doveva essersi avvicinata da dietro perché non me ne ero accorto. Si fermò per poco, mi lanciò un'occhiataccia. Oltre il velo riconobbi i lineamenti di una vecchia. Afferrò il bambino come se la mia presenza lo minacciasse e andò via ciabattando. senza degnarmi di una sola parola. Mi sentii a disagio. Lasciai il mio posto e cominciai piano piano a seguirla. La vecchia scese lungo la strada, costeggiando alcune case, e poi imboccò una traversa. Quando raggiunsi l'angolo dietro al quale lei era scomparsa, vidi in fondo a un vicolo cieco la cupola di una piccola cuba. In questo paese chiamano così i sepolcri dei santi, presso i quali si recano in pellegrinaggio i fedeli con i loro voti. La vecchia era ferma davanti al portone chiuso della cuba e sollevò in alto il piccolissimo bambino. Gli premette la bocca contro un oggetto che io, dal mio punto di osservazione, non fui in grado di discernere. Ripeté quel gesto più volte, poi mise il bimbo a terra, gli prese la manina e si voltò per andarsene. Una volta raggiunto l'angolo del vicolo, dovette nuovamente passare davanti a me, ma questa volta neanche mi guardò più male e riprese la strada dalla quale eravamo venuti. Io mi avvicinai alla cuba e vidi sul portone di legno, a mezza altezza, un anello intorno al quale erano avvolti alcuni vecchi stracci. Erano questi che il bambino aveva baciato. Tutto si era svolto nel massimo silenzio, e nel mio sgomento non mi ero accorto che avevo alle spalle gli scolari che mi stavano osservando. Ad un tratto udii la loro chiara risata. Tre o quattro ragazzini si lanciarono sulla porta della cuba, afferrarono l'anello e si misero a baciare i vecchi stracci. Ridendo forte, ripeterono la procedura da ogni lato. Uno si attaccò a destra dell'anello, un altro a sinistra, e i loro baci continuarono a susseguirsi con schiocchi rumorosi. Di lì a breve furono cacciati via da altri ragazzini che gli stavano dietro. Ciascuno di essi voleva mostrarmi come bisognava fare. Forse si aspettavano che io li imitassi. Erano tutti bambini puliti e ben tenuti. Certamente venivano lavati più di una volta al giorno. Gli stracci, al contrario, parevano sporchissimi, come se fossero serviti per lavare la strada. Passavano per brandelli della veste del santo stesso e trattenevano qualcosa della sua santità ad uso dei fedeli. I ragazzi, dopo averli baciati a sazietà, mi raggiunsero e si misero in circolo attorno a me. Uno mi colpì per il suo viso intelligente e mi accorsi che avrebbe volentieri parlato con me. Gli domandai in francese se sapeva leggere. Rispose molto educatamente: «Oui, monsieur». Io portavo un libro sotto braccio e, aprendolo, glielo porsi. Egli lesse lentamente, ma senza errori, alcune frasi in francese. Il libro era un'opera sulle usanze religiose dei marocchini, e nel punto dove l'avevo aperto trattava della venerazione dei santi e delle loro cuba. Forse fu un caso, o forse anche no. Comunque il ragazzo mi stava leggendo ad alta voce ciò che poco prima mi aveva mostrato insieme ai suoi compagni, ma non diede a vedere di essersi accorto di questo. Forse era talmente preso dalla lettura che non afferrava affatto il senso delle parole. Lo lodai ed egli accolse il mio apprezzamento con la dignità di un adulto. A me piacque moltissimo, tanto che senza volere lo misi in relazione con la donna della grata. Feci segno in direzione della casa in rovina e domandai: «Conosci quella donna che sta lassù?» «Lassù, vicino alla grata». «Oui, monsieur», disse, e si fece serissimo in volto. «Elle est malade?» domandai ancora. «Elle est très malade, monsieur». Quel molto, che dava più forza alla mia domanda, suonò come un lamento, ma un lamento per qualcosa, qualcosa a cui quel ragazzino si era totalmente rassegnato. Avrà avuto 9 anni, ma il suo aspetto ora era quello di chi ha vissuto già 20 anni con una malata grave, sapendo benissimo come bisogna comportarsi in questi casi. «Elle est malade dans sa tête, n'est-ce pas?» «Oui, monsieur, dans sa tête». Fece un cenno col capo quando disse «in testa», ma invece di indicare la propria testa, indicò quella di un altro ragazzo, che era davvero di una bellezza speciale. Aveva un viso lungo, pallido, con grandi occhi spalancati, neri e tristissimi. Nessuno dei bambini rise, stettero lì in silenzio. Il loro umore era mutato di colpo quando io avevo cominciato a parlare della donna alla grata.